anche le nuvole. Per le strade non c'è più nessuno, il vento fischia come un treno, fugge, porta via le foglie come un gregge. Solo io rimango immobile con i miei pensieri e penso a quanti sono prigionieri. A tutti quei bastardi senza cuore che vendono bambini al mercato del dolore. Penso a chi celebra le messe nere, ai codardi nascosti nell'abuso di potere, alle vite che oscillano come su di un pendolo. Poi mi metto in castigo nel mio angolo ed aspetto che su questa terra abbandonata germogli una bellissima giornata che sciolga la neve caduta sul mio sorriso. Vorrei che questo fosse il paradiso. E invece guarda cosa abbiamo combinato. Avevamo un sogno tra le mani e l'abbiamo disturbato. Questo pianeta è irriconoscibile, spietato come un killer insensibile. Quando impareremo a stare fermi? Quando capiremo che il rispetto non si vince con le armi? Ora non dirmi che è normale, non c'è niente da fare, perché certi discorsi non li riesco a sopportare. Sono stufo della gente che dimentica che la colpa non sparisce sulla sedia elettrica. Stufo di chi insegna la politica della violenza, stufo della delinquenza, di chi ruba e di chi subisce il furto. Di posti dove nasce capisci che sei già morto. Vorrei che nessun uomo fosse ucciso, vorrei che questo fosse il paradiso. Vorrei che questo fosse il paradiso. Vorrei che questo fosse il paradiso. Ma da solo non posso cambiare tali regole. Le mie parole come pioggia sulle tegole scivolano via se nessuno ascolta. E di sicuro non farò la voce alta. Per diventare angeli non servono le ali. Basta essere più uomini e meno animali e capire che le atrocità non durano in eterno, che siamo noi a volere questo inferno. Vorrei che questo fosse il paradiso. Vorrei che questo fosse il paradiso. Questo fosse il paradiso.